L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, tanti gli argomenti oggi in calendario, dai disordini a Lampedusa per il nuovo centro immigrati, alla revoca della scomunica dei Friviani con poi tutte le conseguenze del caso e naturalmente il braccio di ferro tra Italia e Brasile per Cesare Battisti, anzi su Cesare Battisti. Tutto questo per epilogare la settimana che è cominciata sabato scorso 24 gennaio e che si è conclusa ieri. Sette notizie per sette giorni, come sempre attraverso i servizi, le interviste e i commenti già trasmessi nei GR di Radio 24. Sabato. Sale la tensione a Lampedusa, l'isola siciliana simbolo dell'immigrazione di questi anni dall'Africa all'Italia. Al centro della protesta che unisce gli abitanti di Lampedusa e chi a Lampedusa invece sbarca con mezzi più o meno di fortuna, ci sono le ultime decisioni del governo in materia appunto di immigrazione. Riascoltiamo la cronaca di sabato di Raffaella Calandra e poi le reazioni politiche con Vincenzo Miglietta. Si ritrovano insieme in corteo, isolani e clandestini, insieme in piazza Lampedusa, i primi nel secondo giorno di sciopero contro l'apertura del nuovo centro di identificazione, i secondi 1300 scappati dai cancelli della struttura dove stipati aspettano di prendere altre strade. Così ben presto si ritrovano fianco a fianco nella piazza davanti al municipio, urlano, protestano, la tensione è alta. Alcuni migranti si sparpagliano sull'isola, tentano di nascondersi, invocano libertà e aiuto. Trovano la solidarietà degli isolani, anche se ormai esausti dopo anni di emergenza e immigrazione, con le strutture di accoglienza costantemente sovraffollate. La gente qui ha paura di un tracollo dell'economia di pesca e turismo, ma contesta soprattutto i modi di una decisione piovuta dall'alto. Il popolo è in piazza perché protesta contro l'apertura di un nuovo centro di identificazione che significherebbe la morte turistica dell'isola. Le leggi non possono essere calpestate. Perché all'improvviso, senza informare nessuno, si trasforma il centro di accoglienza in un carcere a tempo indeterminato? Con il dialogo evitavamo tutto questo gran casino che sta succedendo. Lentamente l'emergenza rientra, ma Lampedusa resta un vulcano in ebollizione. Non c'è stata nessuna fuga, perché lì non è un posto dove sono costretti. Possono andare in paese, bere una birra, tornare indietro. Mostra tranquillità il presidente del Consiglio Berlusconi sui fatti di Lampedusa, poi garantisce i cittadini dell'isola devono stare tranquilli, ci sono già gli accordi per il rimpatrio degli extracomunitari. Il tema immigrazione si aggiunge a quella che molti definiscono una nuova emergenza criminalità e qui il capo del governo annuncia. C'è una proposta del ministro degli interni per aumentare di 10 volte il numero di militari, che invece di essere quindi un esercito che sta a fare la guardia nei confronti del deserto dei tartari, sarà utilizzato per combattere l'esercito del male. 30.000 militari per la sicurezza delle città, dunque scelta questa che però il Partito Democratico boccia, così Veltroni. Fino a qualche giorno fa si diceva che i problemi di sicurezza erano risolti in Italia, adesso si chiedono 30.000 militari in più. Io non credo che la soluzione sia quella di riempire il paese di una presenza che è una presenza impropria per le loro finalità di istituto, di soldati per strada. Nel servizio di Vincenzo Miglietta, l'avete appena risentito, il tema dell'immigrazione si intreccia a quello della sicurezza, che poi è stato un cavallo di battaglia del Partito delle Libertà in campagna elettorale. Tema che ritorna prepotentemente alla ribalta in questi giorni, soprattutto per una serie inquietante di stupri, e tra poco parleremo in dettaglio dei fatti gravissimi di Guidonia. Ma torniamo a Lampedusa con il corrispondente Giampiero Casani, perché anche domenica è una giornata tormentata. Passata l'emergenza e la tensione dopo la fuga di quasi 1.000 clandestini dal centro di accoglienza di Lampedusa in attesa della manifestazione di protesta organizzata per martedì, infiamma la polemica politica per quanto accaduto sabato sull'isola. Il ministro dell'interno Maroni ha accusato la sinistra di aver aizzato alla rivolta gli immigrati. Il vice segretario del PD, Dario Franceschini, ha replicato che quella di Maroni è un'accusa che non ha né capo né coda. E intanto il ministro per la semplificazione, Calderoli, prima accusa il sindaco dell'isola di gettare benzina sul fuoco e poi chiede scusa ai lampedusani per i disagi e propone di fare dell'isola un porto franco. A Lampedusa intanto è proseguito il duello fra il sindaco e la sua ex vice, la senatrice della Lega, Angela Maraventano, che ha tenuto un contestatissimo comizio. Il governo sta lavorando per risolvere i problemi di Lampedusa. Chi ha istigato il mio popolo pagherà e verrà denunciato perché hanno portato il popolo allo sbando. Secca la replica di De Rubeis. Lei il suo popolo l'ha abbandonato, l'ha tradito e lo dimostra il fatto di aver accettato quello che è il disegno diabolico del ministro Maroni, che vuole creare a Lampedusa un centro di espulsioni. Tra poco torneremo ancora a Lampedusa per documentarvi dello sciopero che va in scena martedì. Però prima andiamo idealmente a Massa, in Toscana, dove si registrano tensioni, sempre con in primo piano il difficile rapporto tra abitanti locali e immigrati. Il servizio del corrispondente Ubaldo Cianciulli. Due agenti della polizia e una manifestante contusi, oltre a 20 extracomunitari fermati perché non hanno voluto rilasciare le proprie generalità. È il bilancio degli scontri di ieri a Massa per una manifestazione non autorizzata di una cinquantina di profughi etiopi, eritrei e somali, ospiti da agosto del centro rossa di Marina di Massa. I profughi volevano occupare la strada Aurelia, ma i carabinieri e la polizia glielo hanno impedito. Il prefetto e il vice sindaco del comune Apuano erano pronti ad incontrare e ascoltare i manifestanti che chiedono lo status di profugo e che già due volte avevano pubblicamente protestato per il permesso di soggiorno, l'ultima volta 3 mesi fa. Gli extracomunitari fanno parte di un gruppo di 104 immigrati sbarcati in estate sull'isola di Lampedusa, dove i centri di permanenza temporanei stavano già scoppiando perché sovraffollati. Martedì c'è un'altra protesta, questa volta però senza incidenti e disagi a Lampedusa. Sentiamo ancora la voce di Giampiero Casagni in diretta nel GR delle 13, appunto, di martedì. 5.000, secondo gli organizzatori, hanno partecipato oggi a Lampedusa allo sciopero generale, alla manifestazione di protesta per dire no alla creazione di un centro di identificazione ed espulsione, di affiancare al preesistente centro di accoglienza e soccorso che c'è sull'isola. È stata una manifestazione pacifica, senza tensioni, anche perché la nave che avrebbe dovuto portare sull'isola i container per allestire il CIE voluto dal ministro Maroni, a causa del perdurare delle cattive condizioni meteo marine, non è arrivata neanche oggi. Evitata quindi un'occasione di possibile tensione, il corteo partito dal municipio con in testa il sindaco Bernardino De Rubeis si è diretto al porto, dove è stata deposta in mare una corona di fiori per ricordare migranti e pescatori che nel canale di Sicilia hanno perso la vita. Poi il corteo si è spostato davanti al monumento Porta d'Europa e quindi nuovamente nella piazza del municipio, dove sono in corso alcuni interventi. Lampedusa, insomma, ancora oggi è compatta nel dire no al centro di identificazione ed espulsione, che da queste parti viene considerata una vera iattura. Per identificare i migranti, dicono sull'isola, ci vuole tempo, mesi, e nel frattempo gli sbarchi certamente non si fermeranno, e così l'isola rischia di trasformarsi in un carcere a cielo aperto. Ciò, secondo i lampedusani, comporta una grave perdita d'immagine per l'isola, che l'estate prossima rischia di avere gli alberghi pieni di forze dell'ordine anziché dei turisti. Le cronache segnalano anche a Torino degli scontri sempre martedì in serata tra polizia da un lato e un centinaio di persone dall'altro, persone che sono distinguibili tra giovani dei centri sociali e profughi del Darfur che chiedono alloggi e servizi adeguati. Il bilancio finale è di 6 poliziotti feriti, per fortuna senza conseguenze gravi. Mercoledì intanto il ministro dell'interno Maroni va in Tunisia. Sentiamo Paolo Panceri. L'intesa raggiunta a Tunisi dal titolare del Viminale Roberto Maroni prevede il rimpatrio entro 2 mesi di circa 500 tunisini identificati nei 2 centri per i migranti di Lampedusa, cioè circa la metà dei 1.000 migranti sbarcati sull'isola. 100 di questi partiranno già nei prossimi giorni. L'obiettivo della delegazione italiana a Tunisi era ottenere il rimpatrio del maggior numero possibile di magrebini, ma le autorità tunisine hanno ricordato che l'accordo sulle riammissioni tra i due paesi, siglato nel 98 e rivisto nel 2003, non prevede rientri di massa. Nel frattempo a Lampedusa proseguono le proteste. Ieri un gruppo di isolani ha bloccato la strada verso l'ex base Loran, che dovrebbe ospitare il nuovo centro di identificazione ed espulsione previsto dal governo. Il presidente della Sicilia, Raffaele Lombardo, ha incontrato la cittadinanza di Lampedusa e dopo l'accordo con Tunisi, Lombardo, che oggi incontrerà Maroni, ha auspicato un'analoga intesa anche con la Libia. L'ottavo giorno. Domenica. Viene ricomposto l'ultimo scisma tra i cristiani, infatti Benedetto XVI revoca la scomunica che dal 1988 incombe sui tradizionalisti seguaci di Marcel Lefebvre, che, lo ricordo, non accettano la svolta del Concilio Vaticano II. Se non che tra i vescovi che la Chiesa riabbraccia c'è anche chi sostiene tesi negazioniste sulla Shoah. Il tutto nel 50° anniversario dell'annuncio proprio del Concilio Vaticano II e soprattutto alla vigilia del giorno della memoria. Le polemiche sono davvero roventi. Sentiamo Andrea Viali. La revoca della scomunica è un fatto interno della Chiesa su cui non interveniamo, ma sulle tesi negazioniste abbiamo molto da dire perché sono un'infamia. Alla vigilia del giorno della memoria interviene così Renzo Gattegna, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, nella polemica scoppiata fra mondo ebraico e Chiesa Cattolica dopo la decisione di Papa Ratzinger di revocare la scomunica nei confronti del vescovo lefevriano Richard Williamson, che in un'intervista aveva detto di non credere all'esistenza delle camere a gas naziste. Ci auguriamo che dal Vaticano ci sia una smentita di queste tesi che chiarisca ogni dubbio a riguardo e l'auspicio di Gattegna. Ma a far discutere oggi anche il risultato di un sondaggio in base al quale il 12% degli italiani ammette di essere antisemita. Questa l'opinione di Amos Luzzato, presidente emerito dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Il problema è di non cadere nell'errore di credere che queste cose non ci siano, ma domandarsi quali sono le strutture sociali, educative e informative che lo permettono e perché in questo momento, in questa fase. Mentre il caso dei Lefebvriani rimane aperto, anzi nel corso della settimana poi ci saranno altre parole inquietanti e ne parleremo, per il Vaticano si apre un altro fronte caldo, riguarda la storia infinita, terribile di Eluana Englaro. Lunedì arriva l'ennesima decisione dei giudici e la Chiesa risponde prontamente. Sentiamo prima Raffaella Calandra e poi Valeria De Rosa. La volontà di Eluana va rispettata perché il diritto costituzionale di rifiutare le cure è un diritto di libertà assoluta e si impone erga omnes. Un'altra sentenza ora, quella del TAR della Lombardia, stabilisce che niente e nessuno, né l'obiezione di coscienza, né la regione o il ministero, può prevalere sulla voce del malato espressa attraverso i suoi tutori. Viene così annullato il provvedimento del Pirellone che vietava l'interruzione dell'alimentazione alla donna in stato vegetativo da 17 anni. Anzi, ora proprio la regione ha l'obbligo, scrivono i giudici, di indicare la struttura adeguata per gli ultimi giorni di Eluana, come stabilito già dalla Corte d'Appello. In 7 pagine il TAR chiarisce che questa non è eutanasia, piuttosto la scelta insindacabile del malato, si legge, a voler interrompere i trattamenti perché la malattia segua il suo corso naturale, anche fino alla morte. Citano i giudici il principio costituzionale del consenso informato, che non può essere scalfito nemmeno dall'atto del ministro Sacconi, autorevole ma inidoneo, scrivono. E il titolare del welfare non si rassegna e confida in un ricorso al Consiglio di Stato. Il vero diritto di ogni persona è a vivere e non a morire. Il cardinale Bagnasco apre i lavori del Consiglio Permanente della CEI e le sue parole sembrano una risposta al TAR della Lombardia. Togliere l'alimentazione e l'idratazione a una persona, per di più ammalata, vuol dire spingerla verso quell'inaccettabile epilogo che è l'eutanasia. Bagnasco sottolinea come la legge sul fine vita sia un tema cruciale, ma si sta cercando di far passare nella mentalità comune, ammonisce il cardinale, una pretesa nuova necessità, il diritto di morire. Affronta subito anche un'altra spina il presidente della CEI. Ingiuste le parole pronunciate dagli ebrei nei confronti di Benedetto XVI. I vescovi definiscono misericordioso l'atto compiuto dal pontefice verso gli scismatici di Lefebvre. Allo stesso tempo però i vescovi esprimono dispiacere per le infondate e immotivate dichiarazioni del vescovo Williamson sulla Shoah. Gli ultimi affondi sono per la politica. La crisi economica è già emergenza. I segni evidenti sono la disoccupazione, il precariato giovanile, l'impossibilità per le famiglie di sostenere gli anziani e di arrivare a fine mese. Social card e bonus non bastano, lo Stato deve fare di più. Adesso riprendiamo invece il filo della disputa sui tradizionalisti della Fraternità Pio X. Martedì i Lefebvriani cercano di smarcarsi dal vescovo Williamson e dalle sue posizioni incredibili sulle camere a gas. I dettagli con Maria Luisa Pezzali. La lettera di scusa è firmata da Monsignor Bernard Fellé, il superiore degli ultratradizionalisti a capo della Fraternità di San Pio X, cui appartiene il vescovo britannico negazionista Richard Williamson. Nel tentativo di spegnere le polemiche seguite alla revoca della scomunica, i Lefebvriani chiedono perdono al Papa e a tutti gli uomini di buona volontà per le dichiarazioni inopportune di Williamson sulla Shoah e per le conseguenze drammatiche che hanno avuto. Dichiarazioni che, si legge nel testo diffuso dalla Santa Sede, non riflettono in nessun caso la posizione della nostra fraternita. Fellé ha spiegato poi di aver proibito a Williamson, fino a nuovo ordine, ogni presa di posizione pubblica su questioni politiche o storiche. Ma dal monastero argentino, dove il presule vive ormai da anni, arrivano le testimonianze dei suoi fedelissimi. Sulle camere a gas avrebbe ripetuto: non cambio idea, non ci sono prove della loro esistenza. Le scuse dei Lefebvriani sono arrivate nel giorno della memoria, che ha segnato il culmine delle proteste del mondo ebraico, ma non sembrano bastare. Il termine inopportuno per le parole di Williamson è improprio, dice il rabbino capo di Roma di Segni, mentre l'ambasciatore israeliano a Roma chiede un chiarimento dalla Santa Sede ai più alti livelli. Come se non bastasse però, giovedì si aggiungono al dossier già carico contro i referiani nuove parole agghiaccianti. Questa volta giungono da Treviso. Dario Ricci. Boia, purtroppo, è uno dei più tristi aspetti della guerra, quelle delle rappresaglie, e chi lo fa con rammarico e col cuore pesante, non gli darei l'epiteto boia. Così Don Floriano Abramovic, capo delle comunità dei lefevriani del Nord-Est, definisce in un'intervista TV Eric Priebke, uno dei responsabili dell'eccidio delle fosse ardeatine. Di oggi invece le dichiarazioni fatte alla tribuna di Treviso. Io so che le camere a gas sono esistite almeno per disinfettare, ma non so dire se abbiano fatto morti oppure no, afferma Don Floriano, biasimato dalla sua stessa confraternita. Parole che fanno il paio con quelle dell'altro vescovo lefreviano negazionista Williamson, pur riammesso nella chiesa tra polemiche e proteste. Ma il tentativo di Benedetto XVI di ricucire lo strappo col mondo ebraico va avanti. Continuano infatti i contatti tra Vaticano e Gran Rabbinato di Israele per non cancellare l'incontro di dialogo ebraico-cattolico previsto a Roma a marzo. Eppure il Papa mercoledì, quindi soltanto il giorno precedente a queste nuove polemiche sui seguaci di Lefebvre, aveva parlato ufficialmente per ricucire lo strappo con il mondo ebraico. Sentiamo ancora un servizio di Maria Luisa Pezzali. Il giorno dopo le scuse dei lefevriani, scuse ritenute insufficienti da Israele, tanto che il Gran Rabbinato, la massima autorità ebraica, minaccia di rompere i rapporti con la Santa Sede, dall'udienza generale in Vaticano il Papa pronuncia parole forti su Shoah e negazionismo. Benedetto XVI inizia chiedendo ai lefevriani, ai quali precisa di aver revocato la scomunica come atto di paterna misericordia, di aderire ai principi conciliari. Auspico il sollecito impegno da parte loro di compiere gli ulteriori passi necessari per realizzare la piena comunione con la Chiesa, testimoniando così vera fedeltà e vero riconoscimento del magistero e dell'autorità del Papa e del Concilio Vaticano II. Poi il pontefice esprime piena e indiscutibile solidarietà agli ebrei contro ogni oblio e negazionismo della Shoah. Auspico che la memoria della Shoah induca l'umanità a riflettere sulla imprevedibile potenza del male quando conquista il cuore dell'uomo. La Shoah sia per tutti monito contro l'oblio, contro la negazione o il riduzionismo. Parole in seguito alle quali il Vaticano auspica ora che il dialogo con il Rabbinato di Israele possa continuare. E anche ieri il pontefice è tornato sulla questione, quasi a dover di volta in volta smentire le parole in libertà che dicono altri. Attraverso il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, ha parlato il pontefice. Lombardi ha detto: chi nega la Shoah non sa nulla né del mistero di Dio né della croce di Cristo, e ciò è tanto più grave se la negazione viene dalla bocca di un sacerdote o di un vescovo. E a proposito di vescovi, ha parlato ieri anche il Monsignor Richard Williamson, che è stato così al centro delle questioni, delle discussioni in questa settimana. Ha scritto una lettera nel quale ha espresso il suo sincero rammarico per aver causato al Papa così tante tensioni e problemi non necessari. Lo abbiamo invece ricordato all'inizio, a rendere ancora più grave il contesto di tutta questa diatriba attorno ai lefevriani, ci ha pensato alla stridente concomitanza con il giorno della memoria delle vittime dell'Olocausto, quest'anno celebrato martedì. Tanti i servizi e le interviste di Radio 24 per ricordare il 27 gennaio, tra i tanti eccone uno di Cristina Carpinelli. Il 27 gennaio è l'anniversario della liberazione di Auschwitz ed è diventata una ricorrenza significativa per tutti. L'abbiamo chiamata la giornata della memoria perché deve essere chiaro a tutti che non si può dimenticare l'umiliazione, l'uccisione, la devastazione che il popolo ebraico dovette subire per mano del nazifascismo. Ma la memoria deve essere un punto di partenza, non l'arrivo. Dice così Monio Vadia al microfono di Dario Ricci. Il problema è che o la memoria diventa strumento per il presente e per il futuro, cioè, e diventa urgenza delle generazioni future, cioè bisogna mettere al servizio di questa memoria proprio le proprie fibre interne. Se diventa celebrazione, pian piano si svuoterà, perderà forza. Allora è necessario che la memoria sia collegata alla cultura della democrazia. I principi di uguaglianza, solidarietà, diritti delle minoranze, sono questi i grandi temi che permettono alla memoria della Shoah di avere un futuro. Cioè, se la memoria della Shoah diventa semplicemente quella sorta di rito per costruirsi una specie di verginità da parte delle istituzioni o da parte di politici spregiudicati, è chiaro che tutto questo finirà per essere inghiottito in una sorta di flusso indifferenziato. Lunedì. Esce di scena, anche se in modo non completo, insomma parziale, uno degli imprenditori più famosi, più importanti e decisivi dell'Italia in tantissimi settori, ad esempio l'editoria, tanto per dirne uno. Sentiamo allora Anna Marino e poi il commento di Paolo Madron. A sorpresa l'ingegnere Carlo De Benedetti lascia tutte le presidenze delle società che ha fondato, quindi via dalle cariche di presidente di Cofide, CIR, MC ed Espresso, mantenendo solo la carica di presidente della Fondazione De Benedetti e il ruolo della Fondazione Rothschild, oltre al potere di nomina dei direttori delle Espresso. Saranno designati i presidenti non operativi con i CDA di CIR e Cofide già previsti per giovedì. Poi la rassicurazione che non ci sarà riassetto azionario e una precisazione sui tempi. Io intendo rimanere presidente fino all'approvazione dei bilanci 2008 per assumermi tutte le mie responsabilità e dopo l'approvazione dei bilanci, le assemblee che approveranno i bilanci, darò le dimissioni. Nel giorno dell'addio, De Benedetti si è poi concesso un excursus sulla sua carriera, ricordando i successi con l'Olivetti, l'unica azienda che faceva macchine da scrivere e che si sia trasformata in azienda informatica, ha detto, e citando il Banco Ambrosiano, la SME e la Mondadori, ha affermato: ho avuto eventi che hanno penalizzato la mia carriera per ragioni politiche. Ma fin da subito ha parlato di decisione serena per ragioni soprattutto anagrafiche. Carlo De Benedetti ha sorpreso tutti, ieri ha annunciato che lascia le presidenze delle varie società del gruppo, tranne una presidenza onoraria nell'Espresso e una poltrona di direttore editoriale nuova all'interno del gruppo. Naturalmente ci si è interrogati subito tutti quanti sul perché abbia fatto questo. Qualcuno dice stanchezza dell'ingegnere che da 50 anni cavalca la scena italiana da protagonista, qualcun altro dice qualche frattura all'interno della famiglia in compressione con il figlio, qualcun altro ancora dice che l'ingegnere vuole in realtà dedicarsi solo alla sua ultima passione che è editoriale, che è appunto il gruppo Espresso Repubblica. Che succederà adesso? Lo vedremo nei prossimi giorni, verranno nominati dei presidenti istituzionali, però si guarda già al futuro. Il futuro vuol dire i tre figli dell'ingegnere e chi prenderà il timone, come verrà spartita poi la guida di quello che è stato e che è tuttora un ragguardevole impero. L'ottavo giorno. Martedì. Come annunciato prima della pausa, dobbiamo parlare della triste e terribile vicenda di Guidonia, alle porte di Roma, dove venerdì scorso una ragazza di 21 anni era stata stuprata mentre il fidanzato era stato picchiato e chiuso nel bagagliaio dell'auto. Prima però un'altra storia di violenza, sempre a Roma, durante una festa di Capodanno. Torniamo quindi indietro di quasi un mese. Venerdì scorso il fornaio Davide Franceschini si era presentato spontaneamente in procura e aveva confessato lo stupro della ragazza. Il giorno dopo il giovane invece è agli arresti domiciliari per decisione di un giudice che è donna, attenzione. Sentiamo il servizio di Paola Nania. Lui, lo stupratore di Capodanno, ha confessato, anche se 3 settimane dopo il fatto, è consapevole e sofferente per il gesto compiuto. Anche per questo il giudice ha accordato gli arresti domiciliari ritenendo la misura sufficiente. La vittima ovviamente non la pensa così e per bocca del sindaco di Roma Gianni Alemanno si viene a sapere che si sente abbandonata e delusa da quella che ritiene un'incredibile indulgenza. Dello stesso avviso Alemanno, che chiede la revoca dei domiciliari e parla di segnale sbagliato nei confronti di un reato così odioso. Mentre il ministro della giustizia, Angelino Alfano, ha disposto accertamenti per verificare la regolarità della decisione. Nessuna novità invece sugli altri 2 casi di violenza sessuale a Roma negli ultimi giorni. A Guidonia si cercano i 5 uomini che hanno aggredito una giovane coppia. Il RIS esamina l'auto dove è avvenuta la violenza e si controllano i campi nomadi e quelli abusivi. Nella periferia di Primavalle, invece, dove una donna è stata aggredita alla fermata dell'autobus, forse da 2 persone dell'est, gli insediamenti abusivi sono stati sgomberati ieri. Il servizio che avete appena risentito di Paolo Nania è andato in onda domenica scorsa, quindi non poteva naturalmente sapere degli sviluppi nella vicenda dello stupro di Guidonia, che arrivano martedì e tra poco ne parliamo. Però torniamo ancora sulla vicenda dello stupro di Capodanno, perché monta la polemica politica anche per una frase sinceramente fuori posto del premier Berlusconi. Sentiamo il commento della scrittrice Camilla Baresani. La battuta di Berlusconi è un infortunio, lo è perché non fa ridere e non compiace le donne. Soprattutto colpisce che un tentativo di dire galanterie sveli invece una mentalità arcaica, peraltro molto diffusa. Provate a pensare alle sue parole. Impossibile prevenirli. Servirebbero tanti soldati quante belle donne. Togliete l'aggettivo belle. La frase ha senso, non offende, benché tuttavia rimanga inopportuna. Sarebbe invece stato meglio dire: purtroppo ci sono maschi così violenti e diseducati che è impossibile prevenire tutti gli stupri. Servirebbero tanti soldati quante donne. Invece quell'accentuazione sulla bellezza delle donne svela il classico pensiero maschile per cui è la bellezza ad attirare gli stupratori. Berlusconi sembra dimenticare che vengono stuprate donne vecchie, donne brutte, donne con handicap mentali. Insomma, non è la bellezza femminile la miccia. La miccia è la atavica diseducazione di molti maschi. Se ancora qualcuno pensa che la bellezza sia una provocazione, allora hanno ragione i musulmani che vogliono le loro donne intabarrate perché non accendano gli istinti erotici degli uomini. E dunque siamo pronti con gli sviluppi annunciati della vicenda di Guidonia. Martedì scattano gli arresti e anche la protesta molto dura, molto vivace degli abitanti di Guidonia. La cronaca di questa giornata importante è di Paola Cavadi. Sono prove molto solide quelle in mano alla Procura della Repubblica di Tivoli dopo gli arresti di questa notte in provincia di Roma. Anche se a indagini in corso il riserbo degli inquirenti è d'obbligo, il procuratore capo De Fichi ha confermato le informazioni trapelate questa mattina. I fermati sono 6, tutti incensurati. 4 sono accusati di violenza sessuale e rapina aggravata, 2 di favoreggiamento. Al quadro si aggiunge un elemento, l'età dei componenti della banda, tutti giovanissimi, di età compresa tra i 20 e i 23 anni. 4 dei fermati sono stati bloccati al casello autostradale di Tivoli mentre tentavano di scappare a bordo di una BMW. Decisive per gli arresti le intercettazioni telefoniche disposte negli ultimi giorni, a tradire il gruppo probabilmente i cellulari rubati ai 2 fidanzati al momento dell'aggressione. Questa mattina all'uscita dei fermati dalla caserma dei carabinieri è esplosa la rabbia della popolazione di Guidonia. Sentiamola. Violenza. Ma l'avete vista che faccia? L'episodio è stato stigmatizzato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, Tomasone, che ha voluto ribadire nel corso della conferenza stampa il primato della legge su ogni ipotesi di giustizia fai da te. Anche in questo caso arrivano implacabili le polemiche, le proposte più o meno avventate, più o meno compatibili poi con quello che succede. Nel mirino finisce naturalmente la comunità rumena, visto che sono rumeni gli arrestati per lo stupro di Guidonia. Così Mario Cervi sul giornale lancia l'idea di sospendere addirittura il trattato di Schengen, quello che permette la libera circolazione degli individui dentro la comunità europea. Questa è la replica mercoledì al microfono di Alessandro Milan del ministro degli esteri Franco Frattini. Sono stato in Europa il responsabile dell'allargamento di Schengen e credo di aver fatto bene. Schengen vuol dire che ciascuno di noi, persone per bene, può circolare senza mostrare il passaporto da Roma fino a Helsinki e credo che questa sia una grande libertà a cui non si deve rinunciare. Dobbiamo accompagnare delle misure di contrasto ai criminali. Io non credo che si debba sospendere Schengen, credo che si debba fare di più. Io non direi che sono i criminali, tra virgolette, romeni. I criminali sono criminali sempre, da qualsiasi paese essi provengano. Ci sono dati statistici e chiaramente i dati sono dati. La comunità romena è quella dalla quale purtroppo viene una gran parte di coloro che commettono reati in Italia. Poi vi sono persone che vengono da altri paesi, ma la Romania è un paese ormai dell'Unione Europea con cui dobbiamo e possiamo collaborare, ad esempio, affinché questi criminali tornino a scontare la pena nel loro paese. Questo bisogna dire. Credo che la Romania debba accettare, essendo paese europeo, che un criminale arrestato che deve scontare una pena, quando la pena viene comminata, la sconta nel carcere del suo paese, in questo caso. Questo, a mio avviso, sarebbe la vera solidarietà europea su cui noi vogliamo lavorare senza puntare il dito contro nessuno. Giovedì il GIP di Tivoli convale dai fermi dei romeni accusati della violenza di Guidonia, mentre purtroppo da Padova arriva un'altra storia, l'ennesima di stupro. il racconto di Antonino Padovese. Notte d'inferno per una giovane prostituta padovana prelevata dalla strada dove aspettava clienti da una banda di tre romeni che abitano in provincia di Piacenza. La donna, 21 anni, di origine bulgara, è stata picchiata e violentata, caricata su un'auto e portata fino a Fiorenzuola d'Arda, a circa 200 km da Padova, dove probabilmente i tre l'avrebbero costretta a prostituirsi. Prima di subire l'ennesima violenza, la giovane è riuscita a sfuggire chiedendo aiuto agli operai che stavano entrando nelle fabbriche della zona industriale dove l'auto dei romeni si era fermata. I tre sono stati arrestati dai carabinieri dopo la denuncia della donna, che ha fornito gli elementi utili a individuare la vettura. Nell'abitazione dei presunti aguzzini, due giovani di 23 anni e un uomo di 40, tutti pregiudicati e senza occupazione, i militari hanno trovato quattro pistole e il cellulare rubato alla prostituta. Mercoledì. Era fissato da tempo e naturalmente era molto atteso il vertice a Palazzo Chigi per decidere le misure da attuare nel settore dell'auto, e mercoledì si va avanti a Palazzo Chigi fino a tarda sera. Lunedì, tra l'altro, l'amministratore delegato della Fiat Marchionne aveva lanciato l'allarme. Marchionne aveva addirittura parlato di 60.000 posti a rischio in Fiat, mentre Obama, e poi ne parleremo dettagliatamente nell'ultima parte dell'ottavo giorno, presenta la sua rivoluzione verde che riguarda soprattutto il settore dell'auto, ed è ovvio anche questo. Ma sentiamo come finisce l'incontro di Palazzo Chigi nella cronaca di Elisabetta Fiorito. La parola chiave è far presto. Confindustria lancia l'allarme occupazione sul settore auto e nell'incontro a Palazzo Chigi il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola promette un pacchetto di misure entro 10 giorni. È per fare il punto, per arrivare in tempi brevi alla definizione dei provvedimenti. Le cifre uscite non corrispondono a quello che intendiamo fare. Scajola quindi smentisce incentivi alla rottamazione per 300 milioni di euro con rialzi fino a 400. Le cifre potrebbero essere maggiori. Intanto la disoccupazione è in agguato. Il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia lancia l'allarme. A rischio 300.000 posti di lavoro. Il vicepresidente Alberto Bombassei precisa. Abbiamo indicato circa 60.000 persone che potrebbero riguardare il gruppo Fiat e circa 300.000 invece se dovessimo espandere la stessa riduzione in tutto quello che è l'indotto, ma sarebbero soltanto sospensioni di attività lavorative, le fracasse integrazione o altre cose. I sindacati chiedono di non perdere tempo. Guglielmo Epifani, CGIL. Quello che si è voluto negare prima adesso è evidente, quello che non si è voluto fare prima bisogna farlo adesso. Intanto per tutta la settimana prosegue il dibattito, non senza divisioni e lacerazioni, sull'intesa firmata da governo e sindacati sul modello contrattuale. Ne abbiamo parlato nella puntata della settimana scorsa dell'ottavo giorno. In questa vicenda spicca il no all'intesa della CGIL, del più importante, del più grande sindacato italiano. La CGIL lunedì spiega ulteriormente la sua scelta di dissenso. Sentiamo Paola Cavadi. 1.300 euro in meno in busta paga per i lavoratori, 15 miliardi in più per le imprese. Sarebbe stato questo, secondo la CGIL, l'effetto dell'applicazione del nuovo modello ai contratti nazionali degli ultimi 4 anni. Cifre che riassumono i motivi del no del primo sindacato italiano all'accordo separato firmato giovedì a Palazzo Chigi tra governo, associazioni datoriali, CISL, UIL e UGL. Lo ha ribadito ieri Carlo Podda, segretario della funzione pubblica della CGIL. Questa è la modalità con cui il governo e le associazioni delle imprese intendono affrontare la crisi, diminuendo progressivamente, programmaticamente, il potere d'acquisto dei lavoratori. L'ombelico del mondo economico negli ultimi giorni è in Svizzera, a Davos, dove si svolge il tradizionale World Economic Forum. Tutto il gota economico, finanziario, più ministri competenti e governatori delle banche centrali convergono proprio in Svizzera, a Davos. E proprio a Davos ieri il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, è tornata a parlare della necessità di un contratto unico che preveda, a sue parole, meno tutele all'inizio e poi un loro progressivo aumento per evitare la disparità di trattamento tra lavoratori anziani e giovani. Ma sono molti poi gli spunti che in realtà arrivano dalla Svizzera in questi giorni. Per esempio c'è la Cina, grande protagonista, con il premier Wen Jiabao che si impegna a fare la sua parte per uscire dalla crisi. Poi c'è la lite tra il primo ministro turco Erdogan e il presidente di Israele Peres. Erano stati invitati ad una conferenza, ad un dibattito su Gaza e la difficile situazione in Palestina. Ma sentiamo la cronaca di giovedì dell'inviato Vittorio Darold. I'm not speaking of economic issue, I'm speaking of a political issue. Now we need a union bond. Due fatti hanno segnato la giornata di ieri al World Economic Forum di Davos. L'idea del ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti di emettere degli euro bond. e ha rilanciato l'ipotesi di creare una bad bank che assorba i titoli tossici delle banche senza però esborso dei contribuenti. Tremonti ha detto che il governo italiano ha messo sul piatto già 40 miliardi di stimoli complessivi, ma secondo il presidente di Confindustria, Emme Marcegaglia, ha detto che bisogna fare di più. Occorrono altri 7-8 miliardi di euro per rilanciare l'economia, anche rimodulando finanziamenti già messi in campo. Quanto all'idea del ministro Tremonti di emettere Eurobond, è positiva e va sostenuta in fretta perché è il modo migliore per finanziare la costruzione di nuove infrastrutture, di rilanciare progetti di risparmio energetico, eliminare elementi di distorsione tra bilanci degli stessi Paesi membri senza penalizzare i conti nazionali. Chiudiamo questo nostro bollettino economico, le notizie in realtà sono molte ed è praticamente impossibile dirle tutte, però ne voglio ricordare almeno due. Ieri il PIL americano, abbiamo saputo, nel quarto trimestre 2008 si è ridotto ancora del 3,8%, è un dato sicuramente negativo, ma meglio del meno 5,5% che era previsto. Più in generale sono arrivate brutte notizie, anzi catastrofiche, dall'Islanda e dal Giappone che sono quasi alla bancarotta. In Italia invece le grandi aziende scende l'occupazione, meno 2,1%, e per forza di cose cresce l'utilizzo della cassa integrazione, lo dice l'Istat. L'ottavo giorno. Giovedì. È il giorno in cui Obama firma ufficialmente la sua prima legge del mandato presidenziale, legge che vieta le discriminazioni sul lavoro tra uomini e donne. Ma Obama ha fatto molto altro e forse, al di là dei simboli, molto di più significativo in questa settimana. Nel suo iperattivismo, tante le iniziative in campo nazionale e soprattutto internazionale. Cominciamo però da quello che è già stato ribattezzato New Deal Verde, che Obama presenta lunedì. Sentiamo Sergio Nava. Non si smentisce il neopresidente americano Barack Obama, che ha neppure una settimana dall'insediamento a Washington realizza un'altra spettacolare inversione a U rispetto all'era Bush. Questa volta il focus è sull'ambiente. It will be the policy of my administration to reverse our dependence on foreign oil. Dobbiamo essere indipendenti dal petrolio, ha detto Obama, che ha spiegato nel dettaglio le misure che intende adottare per rafforzare la propria politica energetico-ambientale, uno dei pilastri della campagna elettorale. Obama ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di rivedere la propria decisione contraria sui limiti delle emissioni auto in California e in altri 13 stati che vorrebbero renderli più stringenti. Obama ha annunciato nuovi standard per diminuire i consumi dei veicoli entro il 2011, insieme a un innalzamento al 75% del numero di uffici federali che dovranno adottare parametri energetici più severi. Il nostro obiettivo non è di porre nuovi ostacoli a un'industria già in pesante difficoltà, è di aiutare i costruttori di automobili americani a prepararsi per il futuro, ha detto Obama. Mercoledì invece è stata forse la giornata più importante da quando Obama è alla Casa Bianca dal punto di vista economico. Ci spiega tutto da New York Mario Platero. L'America ieri è passata all'azione in modo deciso per rispondere al pessimismo della settimana scorsa sull'efficacia delle misure adottate finora per arginare la crisi economica e finanziaria. Lo ha fatto muovendosi in tre direzioni diverse. La prima riguarda il passaggio di un pacchetto di stimoli per l'economia, 825 miliardi di dollari, approvato dalla Camera. Il secondo messaggio positivo è venuto dalla Fed, i tassi di interesse resteranno tra lo 0 e lo 0,25% per un discreto periodo, ma la Fed ha dato anche un messaggio importante sul fronte del credito, ha confermato che sta seriamente considerando l'idea di acquistare buoni del tesoro a lunga. Fatto questo, sottolinea la Fed, che aiuterà molto i mercati del credito che, ricordiamolo, restano semi paralizzati. Terzo punto importante venuto dal segretario al tesoro Geithner, il quale ha confermato che si sta lavorando seriamente alla creazione di una bad bank dove far confluire tutti i titoli tossici. Ricordiamolo, i titoli tossici restano in carico alle banche americane. Ieri, alla luce di queste notizie, il settore finanziario è stato quello che si è comportato meglio, balzo addirittura di quasi il 20%, 17% per la revisione del gruppo Citicorp, e in generale un traino forte dei titoli finanziari, borsa al rialzo, insomma un momento per ora di ritrovato ottimismo. Il Dow Jones resta stabilmente sopra quota 8.000, vicino ormai a 8.300 punti. È lunga anche la lista della spesa, diciamo così, anche nel campo minato degli esteri, dall'intervista alla TV all'Arabia, al nuovo disgelo con la Russia. C'è stato, per così dire, uno scambio di pause e di riflessione. Da una parte gli americani rallentano sullo scudo spaziale, dall'altra i russi rallentano sui missili sul Baltico. A proposito, ieri invece una delle figure più scomode sulla strada di Obama ha subito una durissima battuta d'arresto. Si tratta del governatore Blagojevich dell'Illinois, perché il Senato dell'Illinois ha approvato l'impeachment con un voto schiacciante, 59 sì contro nessuno contrario. Ma torniamo in Medio Oriente, perché persino l'Iran, uno degli stati dell'asse del male, secondo Bush, sembra dare un po' di tempo, almeno in questa prima fase, ad Obama. Sentiamo Cristina Balotelli. L'eccentrico presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha deciso questa volta di paragonarsi a Dio, autopromuovendosi a supremo giudice per spedire all'inferno l'ex presidente americano Bush. Andrà all'inferno perché i suoi sono stati la politica e il comportamento più sporchi e criminali negli ultimi 50 anni nel mondo, ha proclamato Ahmadinejad in un comizio. Al nuovo presidente Obama, invece, è concesso il beneficio del novizio. L'Iran aspetta di vedere se quanto da lui promesso sarà un cambiamento vero o solo nelle parole e nei giochi politici. E non poteva mancare dall'uomo che disse che Israele deve essere cancellato dalle mappe del globo una richiesta di risarcimento per le interferenze americane nella politica mediorientale degli ultimi 60 anni. Se quello che il nuovo presidente vuole è un vero cambiamento, ha aggiunto Ahmadinejad, lo deve dimostrare mettendo fine al sostegno dell'illegale e falso regime sionista, cioè Israele, e risarcendo l'Iran per le interferenze americane degli ultimi 60 anni. Venerdì. Ultimo giorno di questa settimana, dell'ottavo giorno, per riassumere i fatti principali della politica italiana, fatti che hanno gravitato attorno, direi soprattutto, a tre punti di riferimento: il tema giustizia, il caso Battisti e la riforma elettorale per le elezioni europee. Cominciamo proprio dalla legge elettorale, perché maggioranza e opposizione sembra abbiano trovato un accordo, siano vicini finalmente ad un accordo, e ieri tra l'altro proprio su questo punto Veltroni a Torino è stato fischiato da esponenti di Rifondazione e Comunisti Italiani. Sentiamo Raffaella Calandra. Raggiunto, ratificato e la settimana prossima probabilmente anche già approvato alla Camera. Sulla legge elettorale per le europee l'inedito accordo tra maggioranza e opposizione è stato trovato a tempi record. Restano le preferenze, ma viene introdotto lo sbarramento al 4% con successiva rivolta dei piccoli partiti che vedono allontanarsi i seggi di Strasburgo. L'ultima accelerazione la dà il sì della Lega, che butta giù la pillola con la data del voto finale per il federalismo fiscale, il 13 marzo. La legge elettorale sarà boicottata in aula dal Movimento delle Autonomie e dalle minoranze linguistiche, ma trova fronde contrarie anche nell'ala dalemiana del PD, che porge l'orecchio alle formazioni escluse dal Parlamento. E se Franceschini considera lo sbarramento un aiuto all'aggregazione della sinistra, da Rifondazioni ai Verdi ai comunisti tutti gridano all'inciuccio, compreso Clemente Mastella, Udeur, che con gli altri extraparlamentari ha chiesto un incontro al Premier. Se non ci ricevo, che l'inciucio è davvero clamoroso. Non si vuole un mese dalla presentazione delle liste cambiare le regole del gioco. La giustizia adesso. Grandi manovre in Parlamento per il disegno di legge Alfano sulle intercettazioni. Giovedì arrivano alla Camera 8 emendamenti del Governo. L'impianto della legge punta ad autorizzare le intercettazioni solo per reati che prevedono più di 5 anni di reclusione e solo laddove esistano gravi indizi di colpevolezza. Questo grave è un aggettivo nuovo che probabilmente restringe il campo di utilizzo e di autorizzazione delle intercettazioni. E di intercettazioni inevitabilmente si parla anche ieri durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Sentiamo Paola Cavadi. Sul pessimo stato di salute della giustizia italiana sono tutti d'accordo. Da qui l'esigenza, ribadita da più fronti, di una riforma il più possibile condivisa. Il primo presidente della Suprema Corte, Vincenzo Carbone, ha puntato il dito contro la piaga della lunghezza dei processi. Da noi, ha detto, un procedimento dura più che in Africa, per questo l'Italia occupa una pessima posizione nella classifica della Banca Mondiale. L'Italia è al 156esimo posto su 181, dopo Angola, Gabon, Guinea, Sao Tomé e prima di Djibouti, Liberia, Sri Lanka e Trinidad. Non possiamo andare avanti così. Sul tema caldo delle intercettazioni, se da un lato Carbone apre alla necessità di limitare proroghe e trascrizioni inutili ai fini processuali, è il procuratore generale Vitaliano Esposito a richiamarne l'importanza nella lotta alla criminalità. Sono costose ma essenziali, ha detto Esposito, specie in un momento in cui il contributo dei collaboratori di giustizia è particolarmente ridotto. Per tutta risposta, il guardasigilli Alfano ha difeso il progetto di riforma allo studio del governo, definendo articolo. Rispettoso al contempo delle esigenze investigative e della dignità della persona coinvolta in quella che troppo spesso diventa una gogna mediatica tanto invincibile quanto insopportabile. C'è poi tutto un discorso a parte sul caso Battisti. Continua infatti il braccio di ferro tra Italia e Brasile, sul filo persino della partita amichevole di calcio tra le due nazionali in programma a Londra l'11 febbraio. Alcuni politici italiani, compreso il ministro della difesa La Russa, vorrebbero annullare la partita. Battisti intanto parla ai giornali brasiliani, proclama la sua innocenza e parla soprattutto di un aiuto concreto da parte dei francesi nell'organizzare la sua fuga proprio in Brasile. Sentiamo invece noi gli aggiornamenti di ieri sera alle 19 con Raffaella Calandra. Il Brasile getta altra benzina sul fuoco del caso Battisti e il ministro della giustizia Genro punta il dito contro l'Italia, ferma ancora, dice, agli anni di piombo. Noi siamo più avanti, tanto che stiamo discutendo sull'amnistia, incalza il guardasigilli Carioca, secondo cui mentre in Brasile c'è una pacificazione politica, in Italia la ferita non è cicatrizzata. Saremo noi a decidere come chiudere quella stagione che ancora non conosce il pentimento, ribatte il titolare della Farnesina, Frattini, che si prepara alla convocazione davanti al Tribunale Supremo per l'estradizione di Battisti. E mentre il Premier invita a non rovinare le relazioni diplomatiche tra i due paesi, per il ministro La Russa non bisogna sollecitare le vacanze in Brasile. Il braccio di ferro sull'ex leader dei PAC dunque prosegue, ma ci sono altri 75 ex terroristi latitanti, di destra e sinistra, sparsi per il mondo. Di molti si conosce tutto, come Alessio Casimirri, il Camillo dei processi Moro. Lo abbiamo rintracciato nel suo ristorante di Managua, la Cueva del Buzzo. Non vuole parlare con i giornalisti, ma ecco la sua voce. E che fa lei? Sono una giornalista. Ecco, allora non c'è niente a parlare, grazie. Abbiamo ancora l'ottava notizia da raccontarvi, purtroppo una notizia triste perché ne approfittiamo per ricordare la scomparsa martedì di Mino Reitano. La scheda è di Paolo Panceri. Una chitarra, 100 illusioni, incisa nel 1968, è uno dei più grandi successi di Mino Reitano, scomparso ieri a 64 anni. Di origine calabrese e di famiglia povera, Reitano studia al conservatorio di Reggio Calabria prima di trasferirsi in Germania, dove inizia la carriera musicale con i fratelli. E proprio in Germania, in un club di Amburgo, il giovane Reitano si esibisce con uno sconosciuto gruppo inglese, i Quarrymen, cioè i Beatles, ai loro esordi. Nella seconda metà degli anni 60 arriva il successo con i festival di Castrocaro, Sanremo e Un disco per l'estate, dove Reitano vince nel 1970 con Era il tempo delle more. Era il tempo delle more. Numerose anche le presenze a Canzonissima, mentre a metà degli anni 90 Reitano affronta anche il ruolo di attore nel film di Carlo Verdone Sono pazzo di Iris Blonde. Nel 2007 infine i primi sintomi della malattia, per la quale era stato sottoposto a due interventi chirurgici un anno e mezzo fa e lo scorso novembre. L'ottavo giorno si chiude qui, ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Ringrazio Valerio Orchetti in regia, l'appuntamento invece alla settimana prossima, sempre su Radio 24, alle 10 oppure alle 23.